teoria, l'autofobia, la bandiera rivala, l'autofobia, è tutto tecnico, l'autofobia, non può da non essere fobia, perché la teoria, l'autofobia, la bandiera rivala, l'autofobia, è tutto tecnico, l'autofobia, non può da non essere fobia. Yeah, it's a positive. L'autofobia, la polla con le tue.